Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Sentiamoceli sempre, due suonini, mi raccomando. E benvenuti e bentornati a tutti qui sulle frequenze di Radio Wombat, e questo è Basement Records con il suo carico di vinili, e questa era appunto la sigla dei L'Esiper Sound di Pierre Henry con la loro Psyché Rock, che poi, se l'avrete riconosciuta, diventerà negli anni 2000 la sigla di Futurama di Matt Groening. Ma qui ho l'onore di ospitare un nuovo vecchio ospite che ritorna qua per la seconda volta con il suo carico vinilico rubato da casa e portato qui a Radio Wombat, perché l'ultima volta che ci eravamo visti c'erano un sacco di dischi che non avevamo messo, e poi ci eravamo divertiti parecchio, ed è qui di nuovo con noi il grande ospite internazionale qui sulle frequenze di Radio Wombat a Basement Records, il ritorno di Nero. Buonasera a tutti, ci siamo qui un'altra volta. Oggi vi presentiamo una selezione pseudo schizofrenica, ma bella. No, schizofrenica sicuro, almeno bipolare, eh? Bipolare di più. Almeno bipolare come minimo, eh? Sì, totalmente. Però vi stupiremo, perché se vi ricordate la puntata scorsa c'erano delle gran creme di musica italiana degli anni 60 che magari... per molti potrebbero essere, cioè, sentiti e risentiti, ma secondo me per i giovani vale tanto rimettere, vale la pena rimettere certi grandi successi italiani per far rendere conto dove eravamo negli anni 60. E infatti, già qui selezionato sul piatto, ho il primo disco della selezione di stasera, che è niente po' di meno che il buon Peppiniello di Capri. Un icona per quegli anni. Assolutamente un icona, anche se ora, oggi magari lo prendereste per il culo e magari lo prenderebbe per il culo anche sua madre, però invece ai suoi tempi il buon Peppiniello nel panorama italiano dell'epoca diceva sicuramente il suo, e scartabellando appunto nella grande collezione vinilica qui di Casanero abbiamo trovato questo, almeno per me sconosciuto, non so nemmeno se è successo, di Peppino di Capri, ma un disco che si chiama così ed è di Peppino di Capri, assolutamente lo dovevamo mettere e farvi sentire qui a Radio Wombat. Che ne pensi? Io ne penso che ne vale la pena. Il titolo è curioso, si chiama "Per voi sarà solo due righe", ma poi ognuno la sua interpretazione. Che facciamo, ce l'andiamo a ascoltare subito? Certo, cominciamo piano per crescere alla grande, per crescere forte. Poi allacciatevi le cinture, perché ora sta arrivando Peppino di Capri con la sua "Solo due righe" qui a Basement Records, Radio Wombat. Solo due righe per dirti ciao, per dirti che ho incontrato l'amore, oh, grazie, grazie di cuore per l'amicizia che m'hai donato. Oggi ho avuto da te una lettera con due righe, dicevi così: domani mi sposo, sono tanto felice, t'auguro amico mio di trovare anche tu ciò che ho trovato io. Io ho avuto da te una lettera con due righe, dicevi così: domani mi sposo, sono tanto felice, t'auguro amico mio di trovare anche ciò che ho trovato io. Addio, addio. E questo era il buon Peppiniello di Capri con la sua solo due righe, però brutti schifosi non era quello che immaginavate voi, parla addirittura di sposarsi, sai, Peppino è piezze core proprio, allora famiglia. Te pensavi che fosse lì che avesse tirato giù gli specchi di casa, sì, col cazzo, cioè pur sempre Peppiniello, magari poi faceva sai che, però perlomeno un po' di casa e chiesa c'era. Sì, no, visto in quegli anni, cioè dovevi comunque mantenere un certo aplomb, diciamo, come con questa linea. Parola che ci piace tanto, questa radio è aplomb, doveva mantenere un certo aplomb per mantenere la sua bella faccina pulita per il pubblico. E allora, cioè, ha scritto sì, solo due righe, però poi parlava di amore, che si doveva sposare, sono felice. Vorrei sentirlo dopo un paio. Dopo due o tre anni che hai inciso questo, e dimmi, oh, allora, t'ha posto? Felice? T'ha posto? Però via, come dico sempre, prima di perderci in inevitabili chiacchiere, quisquiglie e facezie, facciamo quello che dobbiamo fare, ovvero ricordare tutti gli indirizzi di Radio Wombat. Allora, ovviamente il sito è sempre lo stesso, è wombat.noblogs.org. La frequenza, per chi ci ascolta in autoradio su onde medie nella zona di Firenze, è 1359 1359 sul vostro autoradio in onde medie, mi raccomando, in onde medie. Mi era andato via un attimo il segnale del microfono, avevo visto così con l'occhio. Comunque onde medie, se non avete capito. Poi gli altri nostri canali ovviamente sono la mail, mandateci le mail per comunicarci qualsiasi cosa che ci riguardi, che vi passi per la mente. La mail è sempre postawombat@insiberia.net. E siccome non siamo dei vecchiacci da reparto geriatrico, abbiamo anche noi i nostri canali social, sono ovviamente twitter.com/radiowombatfi e Facebook, che ormai i fischelli dicono è il social dei vecchi, non te lo scordare mai. Infatti sono quello. Infatti. E facebook.com/radiowombatfirenze. Bene. E dopo aver compiuto il nostro dovere ricordando gli indirizzi, a questo punto direi di mandare il prossimo 45. Stasera, ci tengo a precisare, sono solo 45 giri e addirittura senza centrino, cioè nemmeno più con la tecnica skin, con la copertina sotto come avevano insegnate il grande Frog One e Giova, che tra l'altro un carissimo saluto a Giova di Pronta Guarigione, se ci sta ascoltando un abbraccio, ti aspettiamo qui come sempre. E niente, no, è proprio così, libero, random, senza centrino, senza niente sotto, proprio centratura a occhio in bolla, che te come mi insegni sempre, bolla è obbligatoria. E guardiamo, e la prossima è un disco che avevamo selezionato perché lo volevamo dedicare, giusto, cioè è un richiamo al mare, perché visto qui si torna sulle balere della riviera Adriatica, dove penso che ho preso la mia prima sbronza da piccino a 8 anni, accompagnando... Coboeri? Coboeri? No, lì c'erano queste botti a uso libero, e mentre i miei babbi e mamma... Quante tu ne avevi? Un po', mi coccolavano tutti, mi portavano e mi lasciavano andare alla botte del Lambrusco. Però... qui si richiama... un po' di mare, un po' di balli, un po' di balere, un ricordo a del buon vino, e abbiamo, logicamente, chi è che è il re delle balere? Raul Casadei. Il Raulone, che poi e i suoi figli, se sapete, hanno continuato addirittura la tradizione del liscio romagnolo e l'hanno portato negli anni 2000, addirittura aggiornando questo verbo, perché non so se sai, però in Romagna e non solo, negli ultimi anni il liscio, rimodernizzato chiaramente e reinterpretato con tutte le influenze odierne di questi anni, è stato ritirato fuori, lo sai, nella musica come tantissime altre cose, le cose si riciclano sempre, no? E allora il figlio di Raul e anche altri artisti romagnoli e non solo hanno pensato bene di riportare il liscio in versione 2000, cioè in versione 2000, 2010 e oltre, perché non è roba di tanto tempo fa, tra l'altro, per modernizzare questa musica, che era un assoluto classico del, diciamo, folklore italiano, perché prima dell'arrivo della musica rock e delle discoteche c'era le balere e il ballo di mattone. Quello, ancora balere, prima di ballo di mattone. Sì, sì, balere ha diritto. E poi questo si dedica anche a Nina. Lo dedichiamo anche a Nina, con però, diciamo, non... giusto perché è Emilia Romagna, specifichiamo, perché a dare agli emiliani di Romagnoli, non so se funziona come dare a un livornese di Pisano, ora non mi sono informato bene di questa cosa, però comunque sì. La zona è quella. La zona è quella, mi raccomando, sì. E dai, sentiamoci, dopo tutto questo pippone, mettiamo il Raulone Casadei. Certo. Con la sua Ciao Mare, in questo caso è scritta, sì, da Raul Casadei, ma cantata da Sandra, con ovviamente l'accompagnamento orchestrale dell'orchestra Casadei. Basement Records, Radio Wombat. La vela bianca, come l'inverno c'è il gabbiano, e l'estate del mio amore è un ricordo ormai lontano. Al mio fianco si sdraiava, si bruciava sotto il sole, s'assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento. Ciao. Ciao, ciao, ciao mare, anche se c'è tanto freddo, io ti vengo a salutare. Ciao, ciao, ciao, ciao mare, il ricordo dell'estate si risveglia nel mio cuore, il vento cancella dalla sabbia i ricordi, ma dal cuore no, il vento tuo. Ciao, ciao, ciao, ciao mare, sulla sabbia è nato un fiore, nel mio cuore un grande amore. Si sdraiava, si bruciava sotto il sole, s'assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento. Ciao, ciao, ciao, ciao mare, il ricordo dell'estate si risveglia nel mio cuore. Ciao, ciao, ciao, ciao, mare. vento cancella dalla sabbia i ricordi, ma dal cuore no. Pam pam, vai col liscio. E come l'era questa ciao mare de buono, eh? Eravamo qui a ballare in su e in giù dentro la regia di Wombat come due dementi. Però ora ci riconteniamo. Siamo tornati alla seggiola. Ci riconteniamo, ci ristabiliamo. Certo. E vedo che hai un foglio lì davanti per ricordare ai nostri ascoltatori, se mai ce ne fossero, mettiamo sempre questo dubbio. Però noi ci crediamo, noi ci crediamo. Abbiamo una folla di milioni e milioni di persone che ci stanno ascoltando, e quindi è giusto che sappiano che cosa. Siamo arrivati alla quarta edizione del Festival di Letteratura Sociale, che si svolgerà come sempre alla Polveriera in via Santa Reparata, 12 Rosso. Ovviamente l'edizione è già cominciata al momento in cui sentite la radio, perché è cominciata il 16 maggio e finisce il 19. Allora vi aggiorniamo sul programma da ora in avanti. Cioè, stasera abbiamo un concerto, 9:30. Perché ovviamente se ci state ascoltando in diretta, i reading e tutte le varie discussioni ormai sono andate, perché erano il pomeriggio fino alla sera. Però se ci state ascoltando e siete in macchina o siete ancora a casa e siete benissimo in tempo a quest'ora ancora per partire, sappiate che alle 21:30 suonano live lo Sgargabonzi. Lo Sgargabonzi suona live stasera, quindi se siete in giro. Domani invece, domenica 19, comincia il programma alle 4 di pomeriggio con la presentazione di Il giorno della nutria di Andrea Zandomeneghi con Edoardo Rialti. Alle 17:30 Ruggine meccanica e libertà di Valerio Monteventi e figlia di una vestaglia blu di Simona Baldanzi con Alberto Prunetti. Ma non finisce qui, continua. Alle 7 di sera, ricetta di confine. Questo a me mi stimola. Cibo narrato dalla Palestina occupata, di Silvia De Marco. Alle 20:30 abbiamo radio conversazione con Felice Accame. In concomitanza a questo evento diamo anche un altro appuntamento, che è all'esterno. Perché cosa succede in Piazza della Repubblica alle 8:30? Alle 8:30 in Piazza della Repubblica a Firenze c'è l'assembramento per andare a contestare Capitan Findus. Il nostro amico, che chissà con che camicia verrà questa volta. Che si mette? La Fiorentina? Secondo me non gli merita. No, quest'anno no, guarda, quest'anno no. Sarebbe il massimo, Sì, no, quest'anno no, fa più figura bella con quella di Pisa. che terrà il suo comizio domani sera, appunto. Sicché c'è l'invito a partecipare a questo concentramento e a questa protesta. Però è un peccato, perché alle 9:30 non finisce, perché alle 9:30 continua alla Polveriera Bobby Sand, un'utopia irlandese, è un reading, un monologo di Riccardo Michelucci, e a fine alle 22:30 domani sera, sempre domani sera, abbiamo Piero DJ a concludere fino a che finirà. Sicché è un'agenda molto molto piena, molto molto fitta, e gli appuntamenti di questo fine settimana non finiscono qui, ma non diamogli tutte le anticipazioni adesso, se no poi non ci ascoltano più. Ora, anche perché tra l'altro mettetevi in macchina, perché gli Sgargabonzi già... Che fate? Non andate a sentire gli Sgargabonzi? Già sono caldi. Ora passiamo al prossimo pezzo. Il prossimo pezzo che sta già girando sul piatto... Memori del capolavoro che ci avevi portato l'ultima trasmissione di Basement, quando eri venuto nostro ospite, quel capolavoro di Galeotto Fulcanotto che, se ti ricordi, ce la siamo ascoltata anche qualche giorno fa in altre situazioni per rimembrare appunto il capolavoro, trovando un altro 45 di Renato Zero. Abbiamo detto, non possiamo non rimettere un altro pezzo di Renato Zero di quegli anni d'oro. Anche perché 45 giri non è che ne faceva tanti. Eh no. Erano abbastanza cose limitate a piccoli pezzi. Anche perché poi per, ora non tantissimi anni, ma per un po' di anni Renato Zero è vissuto anche qua a Firenze, sì, tra sì. l'altro. E quindi un po' di campanilismo ve lo riproponiamo, perché io non sono molto, molto ferrato in materia, ma qui accanto a me c'è un autentico sorcino. Quando ero giovane sì, mi garbava. Van via, quando eri giovane, ma va a cacare, vai. Oh. Si può dire vero cacare a Radio Wombat? Ma cacare o cacare? Va bene, insomma. E al di là delle cazzate, questo è un altro 45 di Renato Zero, in questo caso è Sesso OS. Chiaramente qui a Basement Records, Radio Wombat. Sesso, mi spiace niente sesso, sono l'ombra di me stesso, sono mai il tocco all'osso. Sesso, intorno al sesso, la tua pelle in cartellone, tutto mondo in distorsione. Niente da inventare, niente da maledire, che l'amore sia amore, non un morto da esumare, o affidarsi al sesso. Stato fatto fesso, senza mai indegnare, con rimorso per pudore, fare finta di cambiare, mentre resta tutto uguale, o affidarsi al sesso, e buttare i sentimenti in fondo al cesso. Vita, ho bisogno di vita, cambia un poco anche tu, cerca d'essere tu, detto sesso in fondo al cesso? Capito male? Tutti questi sonini in addetti vari, eh? Papam. E questo era Renato Zero con Sesso OS. Anno Domini, non lo trovo, accontentatevi. 78. Anno Domini 78 per Renato Zero. E vedo che qui già sopra l'altro piatto, ma ti vedo, vedo che vuoi comunicare. Sì, comunque, ma io mai ormai finisco ormai, tutti gli annunci, perché mi pongo nervoso. Mi basta guardarlo in faccia per capire che vuole comunicare. Io continuo a fare i City Lights di questa settimana. Che tu c'hai Lights? No, il City. Ah. City Lights. E abbiamo un'altra serata che, sotto il segno del mostro mitologico, abbiamo l'Hydra Fest al CSA Next Emerson, via di Bellagio 15, ma già questo lo sapevate. A Castello. Castello. Sì, c'è questo festival dove ci saranno due palchi che verranno riempiti da 25 bande. Poi avremo musica a tutto sturo. Ma bande marcianti o bande... Bande musicali, concerti. Gruppi musicali. Non mi sconfondere. Sono qui apposta, sennò 25... che cazzo ci sto a fare, scusa. Allora abbiamo 25 gruppi musicali che si alterneranno in due palchi differenti, sempre dentro il CSA Next Emerson. Sarete accompagnati anche con del fantastico cibo, della fantastica birretta e un bel bistrò. Tutto questo dove, lo ripetiamo, al CSA Next Emerson di Via di Bellagio, numero Castello. Che numero? Ti do numeri, ti sembra te ne dia poco. 15, numero 15. Comincia tutto sabato 18 alle ore 18, cioè per ti sbagliassi. Abbiamo già il sabato 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 gruppi, già pronti, già caldi. Tra l'altro siamo qui che ne avete già persi vari, Però avete sempre domani per rifarvi, eh? Domani alle 4, ve ne ripetiamo, 2, 4, 6, 8, 10, 12 invece, uno o meno. Ricorderei le etichette che collaborano alla nascita di questo festival e che sono loro che portano questi gruppi al CSA Next Emerson. E sono Caciara, virgola, Colletto Nuovi... Colletto Inamidato. Collettivo Nuovi Rumori, virgola, Dio Drone, virgola, Santa Valvola Records, virgola, Terre Emerse e UR Sonori, in collaborazione col CSA. Next Emerson. Spero abbiate capito. Mi ero distratto. Sì, che chi non è a vedere gli sgargabonzi vada ascoltare la musica al CSA. All'Hydra Fest. E tra l'altro, siccome alla polveriera tardissimo non credo che faranno, secondo me, se siete gente con la pompa, prima, una volta finiti gli sgargabonzi, direi che da Santa Reparata... Poi a quest'ora non c'è nemmeno traffico. Non ci avete nemmeno la scusa, no, mi ci vuole un'ora perché... A Firenze per fare un metro ci vuole due ore, come a Milano, che c'è sempre le strade fatte per le carrozze con i cavalli. Guarda, comincia tardi, quindi ce la potete fare serenamente. Noi, direi, appena finito, schizziamo là di corsa, che ci trovate là allegramente a ballettare. A ballettare e basta? O a saltellare malamente? Io saltello ogni tanto malamente, diciamo, guardiamo l'ora. Dipende dall'orario. Però vedo qua sul piatto, che gira sul piatto sotto di me, un vinile storico di una, direi, di un sex symbol della fine degli anni 60. Perché questo 45 viene direttamente da Canzonissima 68. E sulla copertina di questo 45 c'è il bellissimo faccione biondo di quel sex symbol che era Sylvie Vartan, che ha fatto impazzire l'immaginario di tantissimi uomini di quegli anni, forse non solo uomini, perché insomma era proprio... Era veramente bella. Brava. Bravissima. Era bravissima. E in questo caso ci andremo ad ascoltare, appunto preso da questa selezione che aveva portato a Canzonissima del 1968, giusto per rimanere sempre in tema, di Sylvie Vartan ci sentiremo Zoom Zoom Zoom. Venga. Chiaramente qui a Basement Records, Radio Wombat. Questa era la Sylvie Vartan con la sua Zoom Zoom Zoom, grande classico. E come sono partite le prime note di questo 45 di Sylvie Vartan, noi a microfoni spenti eravamo già passati a ricantarla in versione edulcorata a coro, ma non come abbiamo fatto l'altra sera, perché sennò ci buttano fuori da Wombat subito, direttamente certe cose non si può. A me metta la faccia fuori, barrata, cioè la mia e la tua, tutte e due, con il cerchietto con il divieto sopra, quindi l'abbiamo cantata solo fuori onda nelle rimembranze così dello stadio, che poi non era nemmeno lo stadio, era proprio uno stornello fatto, sì, così. Però lo stadio ci sta sempre, dai, buttiamocelo lì in mezzo. Almeno transitava anche per quelle rotte. Sì, noi rincuoriamoci almeno con quei ricordi, cioè, non so, se no... Per lo meno qualcosa, sennò, di folklore. Se no mai una gioia davvero, almeno, cioè... Andiamo con i ricordi, perché se si va ora ci si spara nei coglioni. Non conviene. Ancora, siamo sui tristi. Ancora si spera, vabbè. Chiudiamo questa triste parentesi di amarezza. Allora, ora abbiamo tirato fuori. Ora, realmente non sappiamo bene cosa possa venire fuori da questa canzone. Perché dovreste vedere, sinceramente, Cioè, come è appoggiato questo 45 giri sopra il piatto? E già da quello, secondo me, capireste un po' di cose. Però è proprio questo lo spirito di Basement Records, come amo ripetere. Essendo dischi di recupero, credo che stavolta non avrete proprio assolutamente dubbi che è di recupero. Questo Però, è come un visto... piatto fondo. Sì, è più o meno, guarda, c'è... Anzi, se tu butti la pasta, guarda, secondo me ci si può Esce ne mettere ben fuori. dentro. Infatti, perfetto, anche giusto per farvi capire la convessità di questo vinile, però qui siamo, l'avrete capito, siamo a sperimentare, guarda che faccia da sperimentatori che abbiamo fra tutte e due, e quindi non possiamo non mettere questo disco di un altro, diciamo, grande sicuramente della musica italiana di quei tempi, dopo l'apertura di Peppino Di Capri, in questo caso tocca al buon Jimmy Fontana. Se tocca, pensiamo, oggi dovrebbe essere l'ultimo cantato in italiano del prossimo scaletta andando avanti, mi sembra. Ho dovuto riguardare, Però mi sembra di avercelo chiaro. forse su una c'ho dei dubbi, Cioè, forse un'altra guardiamo. c'è, però un altro genere, quindi sì, Ah, va forse gli bene. ultimi, dici? Perché Forse. la... ci sentite, si sembra veramente portati dalla piena di Secchia, che ne so, che ha strabordato e siamo venuti qua. Però non pensate, ma ci siamo addirittura già preparati la scaletta, cioè... Cose serie, cose serie. E se potevate vederci in faccia, non era assolutamente una cosa scontata questa. E invece ci abbiamo messo anche parecchio di nostro. Del nostro e della collezione dei dischi di Nero's Family, ovviamente. E questo pezzo di Jimmy Fontana. Sì, esatto, di Jimmy Fontana, pensavo di essermi già sbagliato la mia memoria da pesce A rosso. tutto il mondo si aspetta il classico pezzo di Jimmy Fontana, E e invece invece noin. noi ve lo mettiamo e vi diciamo dopo come si intitola. Fai Esatto, mettiamolo subito. Guarda come gira. Guarda come gira. il lavoro, lei mette la puntina. Questo è... Guarda, lo dovevate vedere. È già psichedelia già da qui. Ricordatevi della sperimentazione. Questo è Jimmy Fontana in versione sperimentale Radio Wombat. Lo segnerò così sulla scaletta, ricordatevelo. Jimmy Fontana, Basement Records, Radio Wombat. Per tu mi puoi chiamar Pussy Pussy, ma se c'è un amico d'un parente o conoscente non mi dir Pussy Pussy. Il mio nome è quello vero, è Michele, non te lo scordare mai, mi fai diventare rosso da morire, lo capisci oppure no, non mi chiamar Pussy Pussy. Pussi, pussi, pussi, pussi, pussi, ma bussa via. Il mio nome è quello vero, è Michele, pussi non lo posso sopportar. Ah, tu per tu mi puoi chiamare pussi, pussi, ma se c'è un amico o un parente conoscente non mi dire pussi, pussi. Il mio nome è quello vero, è Michele, e non te lo scordare mai, mi fai diventare rosso da morire, lo capisci oppure no, non mi chiamare, pussi pussi, tutto il santo giorno pussi pussi pussi pussi pussi, e ma bussa via. Il mio nome è quello vero, è Michele, pussi non lo posso sopportare. Guarda, ti dirò la verità, secondo me è venuta ancora più bella dell'originale e suona forse parecchio meglio di tante altre di tanti altri dischi che ho messo qua a Basement Records. Quindi, come si dice? L'aspetto non è la sostanza, no? Quello che vedi e diresti, ma questo non suona neanche. Invece, capolavoro. Capito? Capolavoro. Capolavoro. Qui... Jimmy Fontana, titolo del pezzo. Allora, possiamo, vediamo un tranello, un indovinello. Si chiamerà Michele o Pussy il disco? Io, vabbè, ho i suggerimenti da casa, quindi non posso... Apriamo questo dibattito e scrivetelo a, ovviamente, a postawombat@insiberia.net, oppure mandate un commento nei nostri canali social e fatecelo sapere, però prima che io metta la scaletta del podcast, se no, insomma, mi piace vincere facile, bonci, bonci, bom, bom, bom. Schiavete quanto di tempo? 12 minuti? 15. No, dai... Visto che mi pesi il culo notoriamente, un paio di giorni diamo. Stasera vai all'Emerson a ballare. Capito, insomma, poi ci vuole un paio, siccome sono vecchio, mi ci vuole un paio di giorni per riprendermi. Il podcast arriverà sul sito verso lunedì, quando il neurone incontrerà altro neurone. Allora avete tempo fino a domenica sera? No, anche lunedì, penso. Le vagabondo di nulla. Ma c'è tanto vuoto. C'è tanto vuoto. Prima di ritrovarsi, devono fare un sacco di giri. La domanda è: il disco si chiamava Michele o Pussy? Non vale l'aiuto da casa. Ora bene. Andiamo per. Cominciamo con la scaletta all'inglese. Ce l'hai sulla. La scaletta international. Ce l'hai sulla sinistra, è già pronto lì. Guarda. Ah, bravo. Quello lì nudo. Non era no, era questo. No, quello nudo, lì. Ah, ma tu sei in nudo. Perché come dice la mia mamma, come diceva ormai, perché è un pezzo che mi sono levato da casa, non trovi nemmeno l'acqua Narno quando è in piena, e in questo caso avete capito il perché. Bene. Questo è il primo ospite internazionale, oltre al mitico nero che mi affianca qui accanto a me, ma questo è il primo ospite internazionale della puntata di stasera di Basement, e cosa che forse tu non avrai notato, però c'è una data con un nome sopra il centrino di questo disco, e visto che è roba che t'appartiene, forse... potrai arrivare a un messaggio subliminale che io ignoro. Se non lo vedo. Ah, c'è scritto. Vendo, secondo me era un nome. Nancio. Ostia, non so mia, chissà che babba chi l'ha rubato. 15-11 60 e qualcosa. Intanto è già 15-11-60, quindi insomma. Quindi è un pezzo storico. E l'artista si chiama... 59 anni sto dischino, April Steven. April Steven. April Steven. Il titolo è Touch My Tiger. Insegna la mia tigre. Che potrebbe essere anche... Chi lo sa, sentiamoci questo disco, se no dopo si va sempre a pensare male. Vediamo che si fa schifo e robe del genere. Fammi vedere se mi riesce, mettilo in bolla. È un buon pezzo. Boni, ve lo buco. Boni, e questo è April Stevens con Teach My Tiger a Basement Records, chiaramente su Radio Wombat. Show me, tiger, how to kiss you. Take my lips, they belong to you. But teach me first, teach me what to do. girl, I don't know what to do. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I know that you could love me too, but show me first, show me what to do. This is the first love that I have ever known. What must I do to make you my very own? Teach me, tiger, how to tease you. Wah, wah, wah, wah, wah. Tiger, tiger, I wanna squeeze you. All of my love I will give to you, but teach me, tiger, or I'll teach you. Bella, bella, devo dire bella, guarda, questa mi ha stupito, ero lì che ti sfottevo, invece ci avevi ragione, vedi, quando uno c'ha ragione, lì va data. Capito, zitto zitto, qualcosa ha pescato data. Di buono. Lì va data, c'è poco da fare, e vedo che di là abbiamo subito piazzato un altro disco international. Qui viene registrato in Australia. Addirittura registrato in Australia. E questo è John Paul Young con Love is in the Air. Però non credo che sia quella famosa Love is in the Air. Ora così su due piedi non mi ricordo di chi era la versione originale. E faccio ammenda e mi copro la testa di cenere. Come lo struzzo? Non lo struzzo non la metteva in terra. Sotto? No, io di cenere. Ah, vale, più facile. Ha visto, no? Però io penso che... la cenere lava, almeno mi dà una lavatina anche nel frattempo. Io penso che in teoria sia quella. Dubbi, però, leviamoci questo dubbio, perché qui stiamo sperimentando, stiamo guardando. Il disco è a bolla. Il disco è a bolla perfetta, uno dei migliori dischi mai messi sopra queste giradischi, devo dire. Gira perfetto, che facciamo? Ce lo proviamo ad ascoltare subito? Proviamolo, vai! Sarà o non sarà? Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. love is in the air. Tell me where I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. Ovviamente l'avete riconosciuta, sì, era proprio lei, era la versione originale. E tra l'altro, no, parlando di gente vispa, come si dice qui a Firenze, versione originale c'è scritto roba tipo a 12 colonne sulla copertina del 45, ma non ci avevamo fatto caso. E questa sì è la versione originale di Love is in the Air di John Paul Young, registrata in versione originale, appunto, non sapevo che fosse un pezzo australiano, e devo fare pubblica ammenda, visto che non lo sapevo e non l'avevo riconosciuto, io devo chiedere pubblicamente scusa al mio babbo, se mi sta ascoltando, sicuramente tanto no. E fammi continuare a avere il tuo stesso cognome, ti prego, anche dopo questa defiance. E vabbè, soprassediamo, dai. Ora andiamo avanti con il prossimo. Andiamo avanti. Il prossimo, io ho due righe da dire, accidenti. C'è un po' troppe, ste due righe stasera, eh? Capito, mentre si pensava che fossero tutti gruppi stranieri. E invece... Come al solito, non ci sarà capito una sega, eh? Gli Effervescent Elephant... Sono nati l'elefante effervescente 1985 dalle radici, dalle ceneri di un gruppo precedente, si chiamavano i Clown. Ah, però i Clown sembrano quasi beat, però, come nome di gruppo, i Clown. E hanno finito l'attività nel 91, 26 anni. Pum pam. E visto che ho qua la copertina in mano e sono un gruppo quantomeno a me assolutamente sconosciuto. Vuoi sapere il genere? Sì, dimmelo. Rock psidechel. Come, scusa? Compro una vocale. Rock psi. Rock psiedelio. Oh, allora, finché uno dice non si va via di qui, ascolta. Rock psiedelio direttamente da Vercelli. Ma senti, davvero? In mezzo alle risaie grandi, cazzo. E tanto vale ricordare appunto chi erano gli Effervescent Elephants allora, ovvero Corrado Giolito alla voce, Vico e Lena alla chitarra e voce, Lorenzo Proverbio alle tastiere, Sergio Monti al basso e Aldo Casciano alla batteria. E quindi direi che non ci resta... Ah, a proposito, perché ho voluto mettere questo pezzo? Ho voluto mettere questo pezzo scartabellando tra i mille vinili che ha portato il buon nero, perché questo pezzo si chiama Radio Muezzin e, essendo entrati da nemmeno una settimana in tempo di Ramadan e avendo un sacco di amici che lo fanno, volevo appunto augurare a tutti quelli che fanno il Ramadan un Ramadan Karim, come si dice in arabo, e questa è infatti Radio Muezzin degli Effervescent Elephants, chiaramente qui a Tuna, e sì, addio a Basement Records, Radio Muezzin, mi torto sempre tra le due, questa psichedelia. Quanti neuroni ti porta via, visto come si dice, no? Radio Wombat, cazzate a nastro. pezzo di questi Elephant. Che ne pare? Si ricomincia? Sì, si ricomincia perché c'era un peletto. Questa volta non era colpa del vinile, ma era un peletto di polvere sotto la fontina. Quindi facciamoli risentire, dai, questi. Vai. Perché secondo me ne vale la pena. Sì, no? Aspetta, si riparte. Si riparte. Intanto il buon Dama sta prendendo la mira della puntina. Vai. Dai. Yeah. Questi erano gli Effervescent Elephant con Radio Muezzin. Ti sarebbe piaciuto fosse stato solo un po' di polvere sotto la puntina? No, c'è la polvere sotto la puntina, facciamolo ripartire. Non era per quello. E come se appunto si stava dicendo prima, suonava meglio Jimmy Fontana, il vinile di Jimmy Fontana con il suo aspetto da scodella della pasta asciutta, che non questo che sembrava, almeno così a occhio, perfetto. Però secondo me, se dalle sonorità avete intuito, a me è piaciuto molto e credo proprio che me l'andò anche a ricercare questo disco. Bene, ma andiamo avanti, perché qui ora c'è, penso, uno dei 45, cioè più strani no, però insomma, dopo Jimmy Fontana, Peppino Di Capri, Sylvie Vartan, Love is in the Air, che arriva? In Mayhem, che io non pensavo fossero loro. Cioè, i Mayhem li conosco, però sono veramente dei bruciatori di chiese scandinavi, insomma, proprio il black metal, quello proprio satanico. E quindi volevo farti un paio di domande, mio caro ospite. Ma tu, con i tuoi genitori, visto che avevano questo disco, da bambino, per passare il tempo ed invocare Belfagor, andavi forse tu a bruciare le chiese? Sgozzavi le galline? Che facevi? Mi informerò molto ai miei genitori. Forse non te lo ricordi. Però realmente, trovando questo disco in mezzo tra Claudio Villa, direi praticamente tutta la discografia di Claudio Villa, cioè credetemi. È sbucato questo disco. Io sono sicuro di non averlo comprato. Dubbi qui. Qui partono dei dubbi, perché allora diciamo che dubiti di averlo comprato, non ti ricordi di averlo comprato. Forse ero posseduto nell'ascoltarlo. Eri posseduto da Cthulhu, io lo so. Ti erano spuntate le piovre al posto delle braccia. Sa che stavi combinando? Cominciava a muovere i primi passi. Sei stato precoce. Verso il buon cammino. Sei stato precoce, ragazzo mio, però niente male. E insomma, però non ci siamo voluti togliere questa curiosità. Direi che non rimane altro che mettere la puntina del giradischi sopra i solchi di questo misterioso 45 giri. E vediamo che ci succede. Perché io suppongo siano quei Mayhem, però, ha visto. Supporre anche Jimmy Fontana non doveva suonare, però, come si dice. E vediamo che cosa ci succede. Oddio, bellissimo. Andiamo a cercare le capre? Dai, questi sono i Mayhem. Se no, gli edifici sono vicini. No, si fa alla svelta. Questi sono i Mayhem con Gentle Murder, ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. era finita così improvvisamente, perché ci eravamo persi seguendo le gesta di un'altra etichetta che non vi possiamo andare a anticipare. Mentre ci ascoltavamo questi Mayhem, che non so se a questo punto, non sono così un intenditore da dirti se magari era l'inizio di carriera della black metal band scandinava, che dicevo, riti satanici, capre sgozzate, eccetera, eccetera. Forse gli albori? Non lo so. Non mi voglio... Ci dovrebbero essere delle persone molto più indicate di me a darti certe indicazioni su certi tipi di musica. Io mi ritengo abbastanza ignorante al riguardo, e ovviamente non ho nemmeno controllato mentre stavamo chiacchierando, perché eravamo tutti in altre faccende affaccendati, come si suol dire. Perché? Dici, Nero, perché? Perché ora tiriamo fuori un disco di un'etichetta che si chiama Belfagor, che è come lo stesso nome della serie del film sul mostro del Louvre, Belfagor. Questa etichetta ha avuto una carriera molto lunga, è nato nell'85 ed è finito nell'86, che non è poco. Siamo riusciti a prendere questo disco e è stato registrato a Modena. La sede di questo Belfagor era a Modena. Era a Firenze, però era stato registrato a Modena. Voglio puntualizzato, perché qui dice in una parte addirittura in inglese, pensate che stile, c'è scritto Send Cash to Belfagor Records, casella postale 18252 5100 Firenze, Italia. C'è anche il prezzo, 3000 lire. Ma mi sembra ci sia scritto anche in dollari. Gira all'altro lato. Addirittura 3000. Anzi, guarda, qui già nel retrocopertina, dalle 3000 lire della parte davanti, già nel retrocopertina siamo passati a 4500 lire. Devi girarlo. Era già aumentato di un buon 50%. In Europa costava $2.50, e se qualcuno voleva farselo spedire al di là dell'oceano spendeva $3.50. E questo disco dei Lanciafiamme, bene precisarlo, il disco dei Lanciafiamme, è stato registrato il 4 maggio del 1985 a Modena, e mixato lo stesso giorno, ci tengono a precisare, da Tiziano e da Overdose. Overdose era insieme a Tiziano o era sempre Tiziano? Non lo so, questa è una bella domanda. questa potrebbe essere un altro quiz di Basement Records, che, per favore, chi lo sa, scrivete appunto a Radio Wombat e a Basement Records per risolvere quest'arcano, che io se no stanotte non dormo, perché io voglio sapere se Tiziano e Overdose sono due persone oppure era sempre Tiziano prima e dopo. Comunque calcolando questo disco sta valendo soldi ora, capito? Ora perché te va a vedere ora vi farei vedere come si è ringalluzzito il nostro buon Nero, se lo trovo in vendita ti tiro la copertina proprio in mezzo agli occhi. Praticamente noi vi mettiamo, vi leggiamo i titoli di questi dischi. Perché anche solo i titoli di questo album vale la pena di essere ricordati. Prego. Allora, A1, che sarebbe lato A, A1. Canzone 1. Victor Charlie. Grande. Canzone 2, Cavalcata. E fino a qui. Canzone 3, il titolo è interessante. No guerra, no politica, no religione. Va già in un buon filone, esatto. E il lato B, raccontaci un po'. Allora, il lato B, la canzone che vi metteremo si chiama Ama la loro morte. Non potevamo che mettere che questa, giustamente, no? Sì, è la canzone 1. La canzone 2, nei tuoi occhi, che noi all'inizio si pensava fosse tutto che fosse la canzone, perché sarebbe stato bellissimo una canzone intera di un lato di un 45 che si chiamava Ama la loro morte nei tuoi occhi. sarebbe stato fotonico, invece è solo... Ma se, lo mette, se le mettiamo tutte e due, le possiamo far diventare Ama la loro morte nei tuoi occhi? Io ci sto. Che ne pensi? Io ci sto. Si fa questa... Siamo quasi a fine. Sì, sì, facciamola sta cosa, facciamo. Perché ormai, se no me ne è rimasta qui, ormai già pensavo, ah, ma la loro morte nei tuoi occhi, e dirlo con quest'enfasi. E invece, no, no, mettiamole tutte e due, vai, almeno, almeno torna. Almeno torna il titolo immaginato. E almeno ci sentiamo poi chi erano questi lanciafiamme, perché ci siamo dovuti andare a informare. Levati sto sorrisetto, dopo essere andato a controllare anche te, sta facendo. Bene. Questi sono i Lanciafiamme con Ama la loro morte e nei tuoi occhi. Un anno di attività, ma con successo. Ma con una pompa inaudita, eh. Ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat. Ama la loro morte. E ti chiedevi il perché sono durati un anno. Forse qualche risposta. Adesso l'hai avuta, però io non mi voglio esprimere perché gli esperti del genere sono altri, infatti volevo salutare sia Lomax che Graneco, che sono i miei due numi tutelari per... sì, poi ti dico chi sono, non ti preoccupare. I miei due numi tutelari su certa musica di cui io ammetto la mia totale ignoranza, e questi erano i Lanciafiamme con Ama la loro morte e Nei tuoi occhi, anche se a noi piace metterli insieme. Belfagor Records di Firenze. E ora siamo a questo punto giunti, come si suol dire. Questo è l'ultimo vinile che abbiamo selezionato stasera. So che si potrebbe andare avanti mille anni, però è l'ultimo che abbiamo deciso così arbitrariamente di mettere. E presentaceli un po', visto allora, io che mi ha fatto il riassunto. Questo è un gruppo che nasce a Torino nell'83. Si chiamano Sick Rose, come la poesia di William Blake. Non la conosco, ma l'ho letto su Wikipedia, se no sarebbe troppo. Ti pensavo fuori. E loro fanno un genere che è garage rock, e loro hanno avuto un'attività un po' più lunga, 10 anni. Vedi, già, insomma, già le premesse sono migliori. Ecco. Già c'è un punto in più. Ecco. E noi abbiamo finito, la prossima volta verremo con dell'hardcore molto molto vecchio. E pogheremo nella regia di Wombat? Ci possiamo, nel salottino. Nel salottino, solo se si fa stage diving. Va, però, ecco. Per forza, pedate nel soffitto come dare in terra. E che facciamo? Lo mettiamo e poi facciamo saluti, o mi volevi ancora dare qualche ragguaglio? No, io lo metterei. Mettiamolo, e in questo caso è la prima traccia che occupa interamente il lato A di questo 45 dei Sick Rose, che per essere precisi, adesso che prendo in mano la copertina, visto che abbiamo dato tutte queste informazioni, se volevi sapere chi erano i Sick Rose, te lo dico subito: erano Maurizio Rubinetti alla batteria, Maurizio Campisi al basso, Rinaldo Doro all'organo Jaguar, Diego Mese alla chitarra e Luca Re alla voce. E questi sono i Sick Rose con Get Along Girl, ovviamente sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Se la fotografia è come il pezzo, una poesia. We'll be right back. Bellissimi questi Sick Rose, non penso che ne stavamo parlando fuori onda, non si potesse scegliere un disco migliore per concludere la bellissima, secondo me, puntata di stasera. Poi magari ci infameranno anche i parenti, però noi siamo caricati bene per andare ora direttamente alla seratona all'Emerson, sicché noi ci siamo caricati. Giusto, e questo era perfetto per la carica finale, e quindi non ci resta che rinnovare l'appuntamento qua sulle frequenze di Radio Wombat con la prossima diretta domani pomeriggio, domenica pomeriggio, la classica domenica pomeriggio del Wombat con la fuga del gatto, la pausa pomeridiana di musica classica per farci riprendere dalle fatiche del weekend, con la Bloody Mary e la Virgi, che ovviamente salutiamo, e che vi intratterranno appunto domani con la loro puntata sulla musica classica, per farci riprendere tutti e farci risucchiare la bavetta che ci uscirà domani dalla bocca. E quindi io non posso che ringraziare tantissimo l'ospite internazionale di stasera, il buon Nero, che ci ha portato tutto questo, queste perle viniliche provenienti da casa sua. Abbiamo scoperto anche un po' da Altarini, fateci sapere un po' quello che ne pensate, e vi rinnovo, come già detto, l'appuntamento qui sulle frequenze di Radio Wombat con le mie trasmissioni. Ne riparliamo sabato prossimo per la diretta, o se no, se vi volete riascoltare le repliche su Radio Wombat, ricordo che le repliche sia di Basement Records che di Tonight Alive, se perdete la diretta del sabato sera alle 10:30, lo potrete risentire sia martedì alle 9:30 che giovedì alle 11. Ricordatevelo, segnatevelo. Segnatevelo anche solo per non ascoltarmi e per essere sicuri che non ci sia io, però segnatevelo. E quindi io ringrazio ancora con un abbraccio qui il buon Nero, e qui dal vostro appena poco vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti qui su Radio Wombat e su tutti, e con tutti gli eventi anche qui nei posti liberati di Firenze. Buon sabato sera a tutti qui da Radio Wombat, da Basement Records. Grazie mille, Nero. Vi aspettiamo domani in Polveriera o in Piazza della Repubblica, non ve lo scordate. Yo, Basement. We'll be right back.